Buona giornata, psichinica salocanda. Vibrazioni sì, omini sì, cantanta storia ski, lompinti, assaggenti che hanno i mi conosci lì, SMC, cioccolati di, frutti di, orumi, comprendi sì, candudi, nauca non è facili, a vivi in questo mondo prenegani sì, aio, tutto varisi, so, risi con frarisi, foto quintalisi, dell'ina che ha bruciati sì, fazzulla, dammi di consumazzamini, de su miserabili, mi pare rilandini, scetti di esamini, a chi ne è che si indisbattiri, overrush robedo su voita, dengo iscrai sì, sì, sì, sì, sì, sì, bisigano di dromi si si si si chi si buffa se di moffi si lompi di pizza samonti si sboci si dei locanderi si meri si de gusto loca un di nodi verdi si no non mi vendi si non mi vendi si custesu sono originali e sallocanda custesu sono originali e sallocanda custesu sono originali e sallocanda custesu sono originali e sallocanda stupesa birra e moce zichinica prepare se si impatto custesu sono ga vibra riba porta sfida si aga lento frida non mi friga chi ni verdi gumbida chi ne ha già i verdi e sezze senza il rima za i tei tace moi no di vida za non tenis al rispetto voi sfuedu su via linea za vinza za candu dona za ria i denti se pregiao pensa ad essa ribao su vate che su brato noi spacciao ascuta su ghianao su farmacista su stile trasformista cindevo s'apprendista su dottore sa maestra chi c'è sa trasse artista non bastante scrazzoni za mina e gasesi in lista c'ho li roba frisca c'è ti roba originali pochini mioli mali non cambia su finali, è sempre uguali. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda. Custesu sono originali e sallocanda.